speciale, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Franco Marini, questa la rosa di nomi che Bersani avrebbe comunicato a Berlusconi poco fa. Non si riesce a sapere al momento se ci sia stato un incontro, un colloquio telefonico. La notizia va però detto è stata smentita dal Partito Democratico. Le notizie allora si accavallano e in qualche modo si contraddicono. Altre fonti parlamentari parlerebbero di un nome coperto, ossia che sarebbe al di fuori dei tre nominati prima e che Berlusconi e Bersani presenterebbero ai propri parlamentari questa sera nelle rispettive riunioni già convocate. Che molti qui a Montecitorio non sappiano o non vogliano dire di più è un dato di fatto sul prossimo nome che potrebbe andare al Colle, è il caso dell'ex ministro del Partito Democratico Cesare Damiano. Ascoltiamo. Mi auguro che ci sia il presidente domani, noi avremo un gruppo questa sera che esaminerà ovviamente la questione. Io naturalmente non conosco nessun nome coperto, ci mancherebbe, è una trattativa necessaria fra PD e PDL da una parte, dall'altra ho sempre insistito su un punto: dobbiamo sforzarci di trovare soluzioni condivise, stiamo parlando del Presidente della Repubblica, quindi del garante dell'unità nazionale, sentiremo quali sono le proposte. Perché questa soluzione condivisa deve essere nei confronti del PDL e non verso il Movimento 5 Stelle? Perché non raccogliere questa sorta di invito che era arrivato un po' da Grillo di convergere sul loro nome? Mi pare che Grillo abbia ripetuto all'infinito la stessa solfa di fronte al tentativo di accordo, di intesa, di avvicinamento del Partito Democratico, abbia sempre sbattuto la porta. E poi la soluzione: votate il mio candidato e poi se per caso mi viene bene dialogo con voi. Mi sembra francamente un po' poco, perché lei mi insegna che in politica se una porta si chiude se ne apre un'altra. Queste dunque le ragioni di Cesare Damiano del PD al no del PD proprio al Movimento 5 Stelle. Il nome di Amato e più in generale l'ipotesi di un'intesa tra Partito Democratico e Popolo della Libertà intanto non piace a Sinistra Ecologia e Libertà. Il leader Nichi Vendola dice no ad inciuci, no a prove di governissimo PD, PDE, PDL, io non ci starei, dice Vendola. E Vendola invita a raccogliere poi le aperture del 5 Stelle. Sentiamo Vendola. Io credo che sia sempre sgradevole una discussione che precipita sulle biografie, sulle persone, perché le persone sono tutte quelle di cui si parla sui giornali, hanno una statura politica e culturale elevatissima e meritano molto rispetto, tutti meritano molto rispetto, e trovo assolutamente incomprensibile uno stile iconoclasta di raccontare storie molto importanti di vita democratica, ma la discussione riguarda un metodo e poi una sostanza di ragionamento politico. Se stiamo lavorando per andare nella direzione dell'inciucio, stiamo lavorando per andare contro agli interessi e ai bisogni del Paese. Se stiamo lavorando per andare a decifrare il senso della domanda di cambiamento, oggi non possiamo che guardare con grande attenzione anche alle proposte che vengono dal Movimento delle 5 Stelle. Queste dunque le parole di Vendola, che invita a guardare con attenzione alle proposte del Movimento 5 Stelle. Parliamo proprio di Grillo, continua l'elastico con il Partito Democratico, momenti di avvicinamento e rapide rotture. La giornata oggi, come le altre, può leggersi in questo modo. Ne parliamo allora con Andrea Viali. Andrea, nuove dichiarazioni di Grillo, ma prima notizia di qualche istante fa è arrivata la risposta della Gabanelli. Esatto, ha mandato una lettera al Corriere della Sera, Milena Gabanelli, che lo ricordiamo aveva vinto le Quirinarie, e nella lettera c'è scritto in pratica che ha rifiuta questa offerta del Movimento 5 Stelle, non sarà lei quindi la candidata grillina per la corsa al Colle, non è stata una riflessione serena, ma preferisco fare la giornalista, ha detto in sostanza la conduttrice di Report. Alle sue spalle nelle Quirinarie, lo ricordiamo, si erano piazzati Gino Strada e Stefano Rodotà, vedremo se a questo questo punto saranno loro ad accettare questo incarico del Movimento 5 Stelle. Comunque sia, questo è un problema in più per Beppe Grillo, la cui offerta al Partito Democratico di ieri, lo ricordiamo, nel frattempo sembra di fatto caduta nel vuoto, perché il suo movimento è stato, possiamo dire, tagliato fuori dalle trattative per il Quirinale, e nel primo pomeriggio di oggi dal suo blog Grillo ha rivolto un attacco duro nei confronti di Pierluigi Bersani. Ha ignorato i nostri nomi, lui e Berlusconi hanno già deciso, sostiene Beppe Grillo, convinto che fra i due ci sia già un accordo su due nomi, in particolare quelli di D'Alema e D'Amato, nomi circolati molto in questi giorni, in queste ore, due personaggi di garanzia giudiziaria al posto di una figura di garanzia istituzionale. Berlusconi vuole un garante per i suoi processi, D'Alema e Amato sono candidati ideali, ha scritto il leader 5 Stelle, secondo il quale questo sarebbe in pratica un suicidio della Repubblica, ha scritto, di cui Bersani sarebbe il responsabile. Bersani, lo ricordiamo, ieri Grillo aveva proposto in pratica di appoggiare il candidato scelto dai 5 Stelle con le Quirinarie, spiegando che da questo sarebbe poi potuto partire un confronto anche su altre questioni. Il suo invito però, a quanto sembra, anche dalle cronache degli ultimi minuti, non è stato accolto, questo non è successo, Vincenzo. Grazie Andrea, invito quindi non raccolto. In tutto ciò il Popolo della Libertà mantiene un atteggiamento coerente con quanto detto sin dall'inizio della crisi politica: per il Presidente della Repubblica serve un nome largamente condiviso. Lupi e Gasparri richiamano il PD alle sue responsabilità. Sentiamo allora nell'ordine il Vicepresidente della Camera Lupi e poi il Senatore Gasparri. L'elezione del Presidente della Repubblica è l'occasione più importante che abbiamo per dimostrare che la politica può dare all'Italia una figura autorevole, di garanzia e innanzitutto condivisa tra le principali forze politiche. Questa è l'opportunità e la responsabilità che abbiamo. Speriamo ancora una volta che le divisioni all'interno del PD non portino a seguire i grillini piuttosto che le spinte più estreme che ci sono all'interno di quel partito. I nomi di condivisione sono noti. Uno strappo, sarebbe un errore gravissimo da parte del Partito Democratico, che non può scaricare sulla pelle degli italiani il proprio congresso che è in corso sotto gli occhi sconcertati di tutti. Dobbiamo eleggere il Presidente, non celebrare il congresso del PD. E il PDL non è una corrente del PD, è un partito che rappresenta 10 milioni di persone, pronto a condividere scelte ragionevoli, non a subire imposizioni. Questa è la posizione del Popolo della Libertà, è tutto pronto qui a Montecitorio per l'avvio delle votazioni domani alle 10, ma sentiamo con Alessandra Schepisi come funzionano proprio le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Alessandra. Sì Vincenzo, intanto diamo la notizia che ci saranno due sedute anche a partire da domani, prima seduta alle 10, seconda alle 15, due votazioni al giorno, dunque anche nel fine settimana, così ha deciso poco fa la conferenza dei capigruppi. Il meccanismo è quello previsto dall'articolo 83 della Costituzione, Parlamento che si riunisce in seduta comune, integrato dai delegati regionali con 1.007 grandi elettori, 630 deputati, 316 senatori, 4 senatori a vita, 58 rappresentanti delle regioni, elezione a scrutinio segreto, nei primi tre la maggioranza dei due terzi, dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta. A te Vincenzo. Grazie ad Alessandra Schepisi e ad Andrea Viali. Per la politica del tunnel è tutto. Un saluto da Vincenzo Miglietta.